get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Questa sera trasmettiamo la 59esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane. Siamo Caterina e Lucilla e il primo intervento che vi leggiamo è una recensione di un libro che si intitola, anzi di una pubblicazione per meglio dire, di una pubblicazione che si intitola Oltre il pregiudizio, madri lesbiche e padri gay di Daniela Ciriello. La psicologa e terapeuta Daniela Ciriello pubblica con Il dito e la luna tra la collana 2000 watt di Corrente Contro un interessante contributo sulla genitorialità lesbica e gay. Come ci racconta la stessa autrice nella premessa, l'occasione di questo lavoro è stata la richiesta di tenere un seminario di formazione per operatori da parte del GEA, Genitori Ancora, Centro di Mediazione Familiare del Comune di Milano. L'esigenza era nata dalla difficoltà in cui venivano a trovarsi gli psicologi e gli psicoterapeuti del centro al momento di gestire i casi di separazione in cui uno dei genitori si dichiarava omosessuale. Gli operatori si sentivano insicuri di fronte a questa informazione circa il percorso da seguire sulla modalità di comunicazione nei confronti dei figli. L'autrice rileva che sempre un maggior numero di lesbiche gay si rivolgono ai servizi per chiedere consulenze mediche, psicologiche, legali, ma che purtroppo la risposta è parziale, insufficiente, quando non discriminatoria, e che questo aspetto non ne favorisce la fruizione. Ne sappiamo qualcosa. Con alcune compagne di Roma ho avuto modo di verificare attraverso un questionario somministrato a 100 lesbiche a proposito del rapporto con le strutture sanitarie che oltre il 90% delle intervistate non dichiara la propria scelta sessuale al ginecologo o alla ginecologa. Lo scopo della pubblicazione è di sensibilizzare, da un lato, gli operatori dei servizi affinché promuovano attività di ricerca sul tema della salute, della genitorialità, eccetera, e dall'altro, affinché la comunità gay e lesbica faccia pressione per ottenere prestazioni appropriate. Nella pubblicazione si trovano anche informazioni circa gli stereotipi più diffusi intorno all'omosessualità dei genitori. Il primo è relativo all'influsso negativo che questa avrebbe sulla formazione dell'identità di genere. Il secondo, ancora più curioso, riguarda il fatto che potrebbe favorire l'omosessualità dei figli. Non si capisce come mai la totalità delle lesbiche che conosco proviene da sane, tra virgolette naturalmente, famiglie eterosessuali. Un altro pregiudizio sulle famiglie omosessuali è relativo alla presunta maggiore esposizione dei figli all'abuso sessuale. Ancora una volta, mi suggeriscono, si confonde omosessualità con pedofilia. Mentre esiste ampia letteratura, per non parlare della cronaca, che dimostra statisticamente che ad essere più propensi agli abusi sessuali sono genitori eterosessuali ed in particolare i padri con le figlie minori. Per questo confronta a pagina 18 della pubblicazione. I dati che riporta la dottoressa Ciriello sono relativi a ricerche statunitensi. Purtroppo non esistono studi o statistiche italiane. Da segnalare l'accuratezza bibliografica. Personalmente ho trovato particolarmente gustoso il capitolo Eterosessualità e omosessualità in psicanalisi, di cui vi leggo un piccolo stralcio, che è... Sembra che l'eterosessualità sia la norma non spiegata da cui partire per considerare ogni deviazione da tale norma perversione. Nancy Chodorow, teorica femminista americana e studiosa di psicanalisi, sostiene che viene data per scontata una psicosessualità dello sviluppo eterosessuale normale, dove, mentre le deviazioni dalla norma vanno spiegate, ciò che rientra in tale norma non ha bisogno di spiegazioni. Con l'espressione eterosessualità normale si intende ciò che nella società e nella cultura viene considerato statisticamente prevalente e che quindi da normale diventa normativo. Con questo abbiamo finito di presentarvi questa interessante pubblicazione e niente, passiamo oltre. dalla splendida interpretazione di Aretha Franklin, Jumping Jack Flash. Ciao a tutte, sono Caterina e, beh, non ci crederete, ma sono rimasta quasi sconcertata dopo aver letto un articolo su uno di quei giornali che una volta si potevano definire da sala d'aspetto o da parrucchiera. E già, una volta. È proprio vero, i tempi cambiano. In peggio o in meglio è un giudizio personalissimo che ogni persona è libera di dichiarare. Una volta, appunto, certe riviste che parlavano di moda, di come togliere la macchia di unto dai vestiti buoni o di come cucinare il tacchino, erano giornali pensati e realizzati da editori che, rispondendo a luoghi comuni e dettami sociali ben definiti, offrivano alle donne tutte le risposte che ritenevano utili ed indispensabili per il raggiungimento di una piena gratificazione nella identificazione in un ruolo preciso che rinchiudeva la donna, appunto, entro certi limiti consentiti, quelli della brava donna di casa felice e realizzata. Ma i tempi cambiano, appunto. Alle donne oggi non si può più parlare soltanto di ricette, cosmesi e culinaria. Le donne vogliono di più, sono entrate nelle forze armate, stanno al governo, fanno carriera. Ed ecco apparire sui giornali le sfilate di moda delle donne in uniforme con descrizioni dettagliate sulle scarpe, sui cappellini o sulle borse create apposta per le donne ufficiali. Ecco la ripartizione dei ministeri dove le donne, si sa, così sensibili, hanno un posto d'onore al governo, direi quasi strategico per garantire la salvaguardia della famiglia, delle pari opportunità. Una sorta di assistenti sociali blasonate, mai una ministra della giustizia. D'altra parte, come si potrebbe considerando l'esigua presenza femminile, ad esempio, nel Consiglio Superiore della Magistratura? Mi rendo conto che non sarebbero affatto rappresentative. Due eccezioni sono state Irene Pivetti e Rosa Russo Iervolino, ma stendiamo un velo pietoso. C'è stata anche una ministra della pubblica istruzione la quale, ricordate tutta quella bagarre sull'ora di religione cattolica? Bene, forse è meglio stendere non un velo, ma una coperta pietosa. Poi, dicevo, ci sono le donne in carriera. Ed ecco subito fior di scienziati che sottolineano quanto disagio provino i bambini figli delle donne in carriera. Hanno problemi di adattamento, soffrono, ahi noi, di continui mal di testa perché costretti ad una vita frenetica accanto a queste madri, professionalmente sufficientemente valide, che però abbandonano a loro stessi la prole. Una vera vergogna. Non c'è che dire, i tempi cambiano. Ma chissà perché ho la netta sensazione che in ogni caso, nell'editoria definita femminile, non sia cambiato poi granché. Prova ne è, appunto, l'articolo che ho letto su Anna qualche tempo fa. Visto che oggi su quella carta stampata si toccano problemi così scottanti, importanti e significativi, non si poteva non affrontare il problema degli omosessuali. Il titolo infatti è Coppie gay con bambini. È una famiglia? L'articolo di Sara Gandolfi inizia così. Un putiferio, proteste all'opposizione, perplessità nel governo e una condanna senza appello lanciata dal Vaticano. Penso, anzi spero, non sia più un mistero che noi del coordinamento lesbiche romane abbiamo un punto di vista ben preciso a questo riguardo. Sostanzialmente riteniamo che l'eventuale approvazione dei matrimoni tra omosessuali e quindi anche tutto ciò che riguarda i figli, inseminazione artificiale, adozione, eccetera, non siano argomenti prioritari nella nostra pratica politica. E non è indipendente da ciò che noi pensiamo che tutto questo putiferio appunto ci dia fastidio. Fastidio generato non dal fatto che qualcuno o qualcuna, sentendo il bisogno di mettere su famiglia, lotti per ottenere la legalizzazione di questo bisogno, ma il fastidio nasce dall'identificazione di questo bisogno di una parte del movimento omosessuale con il bisogno di tutti e tutte. Ora, in questo articolo tutto sommato, non si fa altro che riportare, se vogliamo in maniera alquanto asettica, quanto avviene già. si è partita enunciando la decisione del Parlamento europeo rispetto alle unioni omosessuali, si è spiegato che questa decisione non è vincolante per i singoli stati membri, fino ad arrivare alla descrizione di due storie vere, quella di due bambine americane le quali hanno rispettivamente due mamme una e due papà l'altra. Prima di iniziare questo racconto, l'autrice dell'articolo scrive: «Per dare voce ai protagonisti e alle loro ragioni, mettendo da parte per un attimo tutte le polemiche». E come si fa a metterle da parte? All'autrice dell'articolo riconosco, se non altro, una buona capacità descrittiva e una fedele trascrizione dei fatti. Sono convinta che, tutto sommato, lei non trova particolarmente sconveniente e disdicevole il matrimonio tra omosessuali. E allora, direte voi, dov'è il problema? Da dove nasce questo bisogno di polemica? Dunque, vediamo come posso farvi capire meglio. Se io, invece di essere una lesbica, fossi, che so, un pesce, rientrerei sicuramente nella categoria degli animali che, per respirare, hanno bisogno delle branchie. Il fastidio che proverei nell'essere identificata attraverso una classificazione così generalizzata sarebbe il minimo, ma un conto è dire che Caterina è un pesce, quindi ha le branchie, e in questo caso io sarei portata a rivendicare soltanto la mia diversa identità, specificando per esempio che sono un'aragosta, un granchio, una vongola, quindi con caratteristiche a me peculiari che mi differenziano sostanzialmente dalla totalità del mondo ittico. Un altro conto è invece dire che, visto che sono un pesce, nuoto per forza nell'acqua salata. E se fossi una trota? Un'anguilla? Insomma, un pesce sì, ma di acqua dolce? Spero che abbiate capito che allora il mio fastidio sarebbe un tantino più forte. Ecco, dire che gli omosessuali lottano per il diritto al matrimonio equivale all'essere considerata per forza, qualora io fossi veramente un animale con le branchie, in un pesce di mare. Fatto questo cappello introduttivo del problema, vorrei sottolineare un altro aspetto che ho rilevato nelle parole rilasciate dai quattro genitori intervistate. Lungi da me la voglia di esprimere un parere sulla loro scelta di diventare genitori, ma la cosa che inevitabilmente noto è che sia gli intervistati sia l'intervistatrice hanno fatto di tutto per porgere all'opinione pubblica una visione di normalità. Come tutte le coppie con figli, anche loro si organizzano per la scuola, per il pranzo, per i compiti, per il tempo libero, per le faccende domestiche e per l'educazione da impartire. Ora, dov'è finita la differenza? Sostanzialmente, dopo aver letto un articolo del genere, si è portati a pensare che in fondo non c'è differenza alcuna. Personalmente, non ho mai provato l'esigenza di diventare madre, ma la cosa che mi stupisce è quella di riscontrare un sostanziale appiattimento e una voglia di omologazione senza pari in coloro che invece hanno realizzato questo desiderio. Il loro rapporto di coppia, in definitiva, differisce da quello di una coppia eterosessuale solo dal sesso, lo stesso, del compagno o della compagna. Ma siamo veramente sicure che non c'è differenza? Qualcosa non mi torna. Il mio essere lesbica differisce dalle scelte di mia sorella, sposata con figli, solo perché vado a letto con un'altra donna? È tutto qui? Tutta la situazione mi farebbe incazzare di meno se notassi un risvolto diverso da coloro che hanno deciso di avere figli. Questa prova di coraggio mi piacerebbe che desse alla scelta una connotazione più rivoluzionaria, che so, che almeno si rivendichino queste due cose basilari. Primo, avere la possibilità di essere altro e volere qualcosa di non previsto dalla norma, facendo impazzire chiunque cerchi di definire, collocare o classificare qualcosa che non è di per sé stesso omologabile ai codici standardizzati. Insomma, se è vero che siamo diversi, pensiamo veramente qualcosa che sia diverso. Due, avere la possibilità di dimostrare ai figli che nella vita c'è più di una possibilità di scelta. Eh sì. Non credo che soltanto l'esempio vivente incarnato dalle coppie genitoriali possa essere sufficiente. Certo, c'è da domandarsi anche quanto condizionamento sociale ci sia in coppie omosessuali come quelle descritte nell'articolo. Quanta voglia di cambiare, quanta consapevolezza ci sia in chi pretende di fare finta che in fondo è la stessa cosa. Ma come dicevo prima, non siamo tutti uguali. E allora, per piacere, Non pensiate che io sia doppiamente strana se dichiaro di non voler diventare mamma e di non volermi sposare. Bene, ora vi lascio insieme a Janis Joplin con il brano, aspettate che lo leggo perché non me lo ricordo, Summertime. Ciao! Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Gli appuntamenti. Nell'ambito della festa di Radio Onda Rossa, che si terrà dal 1 al 4 giugno 2000 al Forte Prenestino, ci saremo anche noi in diretta giovedì 1 giugno con una trasmissione speciale di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, sempre sugli 87-900 e sempre con le compagne del Martedì Femminista Autogestito. A Milano, Bologna, Viareggio, dal 31 maggio all'11 giugno 2000 si terrà il 14° Festival Internazionale di Cinema Gay e Lesbico. Il Festival Internazionale di Cinema Gay e Lesbico del 2000, che si terrà appunto dal 31 maggio al 5 giugno a Milano e sarà in tour dal 5 al 9 giugno a Bologna, con una nuova tappa a Viareggio dall'8 all'11 giugno. L'edizione milanese si svolgerà quest'anno al cinema Pasquirolo, nel cuore della città, in corso Vittorio Emanuele II. Età e rapporti intergenerazionali è il tema del festival di quest'anno. L'obiettivo principale del festival è quello di presentare e distribuire film in pellicola e in video, fiction e documentari, lungometraggi o cortometraggi, solitamente di produzione indipendente, che raccontino e descrivano il variegato universo gay e lesbico. Per informazioni sul ricchissimo programma, Toni Aventino 0349 4304 935. Il Centro Multimediale di Genere Zora, martedì 30 maggio 2000, ore 21, presenta Sono stata orsa a Brauron, storie di lotte contadine al femminile in Sicilia, di Angela Lanza, Rubettino Editore. Canti di tradizioni orali con le voci di Sonia Commentucci e Cristiana Baruffi. Il tutto alla Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1B, Roma. Per la musica lesbica indipendente abbiamo scelto un brano delle Indigo Girls che si intitola Prince of Darkness. Buon ascolto. Dark places of the sun and this place is of the dark night. I do not feel the romance, I do not catch the spark. My place is of the sun and this place is of the dark night. I do not feel the romance, I do not catch the spark. I don't know when I noticed life was life at my expense. The words of my heart lined up like prisoners on a fence. The dreams came in like needy children tugging at my sleeve. I said I have no way of feeding you, so leave. There was a time I asked my father for a dollar and he gave it a $10 raise. And when I tried to make this place my place. I asked for Providence to smile upon me with his sweet face. Yeah, but I'll tell you, my place is of the sun and this place is of the dark. I do not feel the romance, I do not catch the spark. My place is of the sun and this place is of the dark. For the Prince of Darkness any longer. Maybe there's no haven in this world for tender age. My heart beat like the wings of wild birds in a cage. My greatest hope, my greatest cause to grieve. And my heart from its cage and it bled upon my sleeve. Oh, the cries of passing were like wounds that needed healing. I couldn't hear them for the thunder. I was half the naked distance between hell and heaven's ceiling, and he almost pulled me under. My place, I ask for Providence to smile upon me with his sweet face. But I'll tell you, my place is of the sun and this place is of the dark. I do not feel the romance, I do not catch the spark. My place is of the sun. Any longer. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del Martedì Femminista Autogestito di Radio Onda Rossa. Se volete potete telefonarci direttamente in radio oppure ogni mercoledì dalle 20:30 in poi al Centro Femminista Separatista, numero di telefono 06 6864 201, anche fax e segreteria, oppure scriverci all'email clrbp@hotmail.com. Noi aspettiamo vostre notizie, vostre informazioni e quanto e quant'altro ci vogliate inviare per partecipare anche voi a La stupenda è una calamità. I went all the way to Paris to forget your face. Allora, adesso volevo leggervi una poesia tratta dal libro Considerate le circostanze, che è un'antologia di poesie e racconti erotici lesbici. È di Brenda Brooks e si intitola Oh. Questa cosa che sento per lei mi confonde e mi rende così nervosa che voglio smettere di stare così male. E se lei va via, voglio sempre stare così male e mai trovare pace. Voglio trovare una ciocca dei suoi capelli corti sul mio maglione bianco. Voglio vederla mangiare la schiuma del suo caffè au lait. Voglio sentire i miei capezzoli indurirsi contro i suoi e tormentarla e cedere al piacere. Lasciare che l'interno delle mie labbra si consumi per i suoi baci. Voglio tirarla a me e bere fino a soffocare. Voglio vedere i suoi occhi oscurati dal desiderio e la sua rabbia volta in passione. Voglio essere gentile. Voglio che il mio accappatoio le scivoli giù per le spalle la mattina. Voglio fare l'amore con lei, assaporare ogni parte di lei. Voglio portare il suo sapore, la trama della sua pelle, il suo odore più intimo dentro di me. Oh, questa cosa io sento. Ci è appena giunta in redazione una notizia che il 24 maggio 2000, alle ore 18:30, presso la Casa Internazionale delle Donne, in via San Francesco di Sales 1B, l'associazione Il Paese delle Donne presenta la guida Le Donne di Roma, le strade della capitale dedicate alle donne, a cura di Camilla Briganti. Intervengono Camilla Briganti, ricercatrice, Daniela Monteforte, ufficio pari opportunità del Comune di Roma, Edda Billi, consiglio di presidenza dell'Associazione Federativa Femminista Internazionale, Laura Capitta, centro di documentazione e studi sul femminismo del Centro Femminista Separatista, Giovanna Olivieri, archivi lesbici italiani, Carla Pinna, archivio Evelyn Reed. È prevista la partecipazione di rappresentanti della consulta femminile regionale e della commissione delle LEP del Comune di Roma. Coordina Maria Paola Fiorenzoli. Vi leggiamo adesso due contributi che ci hanno inviato da Bologna alcune compagne. E una è una bellissima poesia che è stata tradotta da questa donna e che proviene da Madrid. Il gruppo è Lesbiana Sina Duda, cioè le lesbiche senza dubbio. E la traduzione è così, è una poesia appunto, lesbica. Perché solo lei è la risposta a tutte le mie richieste, i miei piaceri, il mio essere politico. Perché bacia la mia faccia con la sua umidità e sa scherzare perché sa muovermi sul suo corpo con un sorriso tanto brillante come la luna, perché è sfacciata, è orgogliosa, perché il sesso è sicuro, è responsabile, perché mi apre e riscalda il mio spirito, perché seno a seno ci strusciamo, saltiamo, parliamo, clitoride a clitoride, e voliamo lontano, perché spesso siamo molto più di due, perché solo lei aggiusta bene le macchine e riesce a frenare a tempo di... perché mi parla di come si programma il computer e mi fa innervosire, perché è sana in una società insana, perché siamo il fondamento e la cima, perché siamo il sale e il pepe della terra, noi siamo lesbiche, perché... E tu perché sei eterosessuale? E adesso un'altra traduzione dall'Australia, nel 1980, è un piccolo decalogo, sono 16 punti, consigli a una eterosessuale la prima volta che incontra una lesbica. 1. Non precipitarti fuori dalla stanza urlando, è maleducazione. 2. Se devi assolutamente battere in ritirata, fallo piano e con discrezione. 3. Non presupporre che lei ti desidera. 4. non presupporre che lei non ti desidera. 5. Non presupporre che tu non la desideri. 6. Non ti aspettare che lei sia tanto eccitata di incontrare una etero come tu puoi esserlo di incontrare una lesbica. Lei è probabilmente stata cresciuta con delle etero. 7. Non ti mettere subito a parlare del tuo compagno o marito perché sia chiaro che tu sei etero. Lei probabilmente lo sa già. 8. Non dire a lei che si è sessiste a preferire le donne, che la gente è la gente e che lei dovrebbe poter amare tutto il mondo. Questi sono dei falsi ragionamenti che dovrebbero essere compresi come tali. 9. Non la inviti da qualche parte dove ci saranno uomini senza avvertirla prima. Può essere che lei non voglia stare in loro compagnia. 10. Non le chiedi come lei è diventata così. Poniti piuttosto la questione di sapere come tu sei diventata così. 11. Non presupporre che lei muoia dalla voglia di parlare del suo lesbismo. 12. Non ti aspettare che lei si trattenga dal parlare del suo lesbismo. 13. Non trivializzare il suo vissuto presupponendo che si tratti unicamente di una storia di scopate. Lei è lesbica 24 ore su 24. 14. Non presupporre che, dal fatto che lei è lesbica, voglia essere trattata come un uomo. 15. Non presupporre che il suo cuore salti di gioia se le tocchi il braccio, in modo condiscendente, per flirtare, per tastare il tuo potere, questo la fa arrabbiare. 16. Se sei tentata di dire che ha scelto la via più facile, riflettici. Post scriptum. Aggiungi o barra dei consigli se ne hai voglia e dallo alle donne etero di tua conoscenza, se sei etero te stessa, appendi l'originale a casa tua in un posto molto visibile. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.